speriamo cazzo che quando scenda qualche meteorite, cazzo, lì in Russia, al Cremlino, il muro da fare pulizia, va a far culo, non sentiamo più un cazzo. No, io voglio che la meteorite cada sul governo di Roma, boh, solo al governo, se ti ammazza il civile. E muore cadono al governo, sono tutti bene, vedi cara che chi si magnacci, parassiti. Boh, il resto non mi interessa. Guarda che in Russia ai reporter italiani gli ha detto di andare via e di non sfugare, di non togliere notizie false e di stare zitti all'Italia, Hitler ha detto a chi, io sono convinto che qualcuno ammazzano in Givi. Fatene bene. Ah, io guardo, ti giuro, sono a favore dei Putin, di lui, che vuoi, perché questo Zelensky era già un pagliaccio. Cazzo si mette contro la Russia, ma lo sa cos'è la Russia? È come se un pizzino anda contro 100 uomini, e cosa fai? Nulla, hai già perso, cosa è conti di briga che l'Italia deve delle armi, se no, uia. Invece per colpa sua ha distrutto i paesi, città e migliaia di bassole mucci, per colpa di un guascio. Comunque gliele ha date anche la Germania le armi. Tutti gliele stanno dando, ecco un casino, e per candidare. Adesso anche l'Inghilterra gli può dare 10 missili che arriva a 80 km, maio dai, brutto. Sapete che sul Chito si stato, dice che c'è un tumore, Putin. Che si dice a me, quando è curto il murino si ascolta, molto ma molto, no, chi c'è il bussante, il murino tutti canti, va a far culo. C'è davvero anche quella paura, dice che c'è un tumore, è maligno buono, ma cosa può fare? Speriamo che si metta la mano nella coscienza e fermi tutto. Ma guarda che se muore Putin c'è quell'altro che ho fatto vedere che ha minacciato tutto l'Occidente, anche l'Italia, tutti i cazzoni, che devono sparire tutti questi bastardi, ha detto. E c'è quello lì che è pericoloso, per peggio di Putin. No, quello della Corea del Nord. No, visto Morelli, Mattesi, visto pure quando tu vuole. Ah, sicuro sì? No, che è un ministro della Russia, che l'ha fatto vedere oggi in televisione, burro. Ah, io pensavo che era visto della Corea, visto un uomo che c'è un rasso. No, visto non è fumacco, no. Questo è amico fedele, proprio fedele, a fianco del ministro in Russia. Ah, capo, non lo sapeva mai bene, mica, sono governo di Montezza e Antonello, la televisione non lo so neanche guardare, accendo sempre su Iris, Latri, tanto babà da film e basta, perché intanto dall'1 al 5 è tutto quanto cosa di politica. E anche la gente, la carità. Io allora, la RAI non la guardo proprio, perché comunica a me non mi interessa. E l'audio, la RAI per me non la pure più un banco, me la fottuta. Mi guarda qualche film bello, Italia 1, qualche volta su Canale 5, ma vado sempre sul 20 perché sono sempre bei film, capito? Allora, beh, signori, vedi, vedrò se meno 20, ne approfitto oggi che ci sono il microfono e me ne vado trovando, ma me ne vado, vedrò con gira sabatti, scogliamo un canto. Signore Belli, ciao, ci sentiamo alle prossime, a domani, state bene e buona notte. Antonella e compagnia cantante. Ciao a tutti, ci sentiamo, buonanotte, buon tutto alle prossime. Avanti fra. Ciao Tony, buonanotte, buon tutto, là, ci sentiamo nel prossimo. E quasi quasi mi cerco di qualche io, già mezzanotte. Antonè, ce la riascoltiamo, vai. Chiava De Rogero. E com'è adesso, Antonio, il segnale da te? Vedi a vedere com'è, se è aumentato qualcosa. Ciao, fra, buonanotte. 9:10, sei quanto Tonino? Capo, dai. E adesso ha scaldato, perché adesso mi dà 30 watt e può durare 40. Anche 60 watt la vetta, ma durate quasi 50, dove torni, figurati. Quindi sono a regime giusto solo. Capo, ciao Tony. Già va bene. Sì, caspita, da 30, a volte sale anche a 50 sale, a volte sale, però se, dipende come alza la voce. Ma io sto con la voce bassa, la verità, non sono la voce alta, quindi che va bene, passo da 30 a 50 in picco positivo. Ho capito la capsula del mio 5, capito? Se l'avete tagliato manco mi sentivi prima. Li ho cambiati, eccetera, eccetera. Ed è perfetto adesso, il microfono. E un siluro. E c'ho la... il coso sulla C, aspetta. Adesso, adesso, ma ti chiama letta, guarda un po'. Quasi 100 volte di picco so. Sì, sì, si vede che sta spingendo. No, io già lo sai, la mia situazione sta spingendo. Infatti l'altro giorno l'ho attaccato e non si muoveva per niente, lo spingevo. Che cavolo è? Allora ero il pulsantino di sotto. L'ho aperto, l'ho spruzzato un po' di spray, l'ho spruzzato. È ripartito e adesso è di nuovo perfetto. È strano comunque, con le BC60 faccio quei difetti, quel cavolo di posantino di sotto. Mi ha detto, prendi uno di quelli di riserva, forse se magari a Twitter, te lo prendi direttamente alla vetta e va a fanculo me. Fai prima, glielo metti alla vetta, glielo metti dietro, gli fai un foro, e sei più tranquillo a un certo punto, poi se la piglia ancora che ci prendi molto per fare un foro dietro, potrei essere sotto. Ma no, adesso ho visto che l'ho mosso, poi gli ho spruzzato il coso ed è partito subito, probabilmente era sporco, capito? Ah beh, allora sì, già va bene, quindi stai scendo benissimo a Fulvio, ci manterebbe. Sei perfetto, io guarda, quando sono arrivando qua sono il coso, ma dovevo mettere delle MB5 che stare a striscia rossa addirittura, figurati tu. Ehi capo, no, già sta tirando, me ne accorgo, c'hai dei picchi, parecchi picchi, cioè fai a 7, da a volte quando mulli vai a 7 e poi quando mulli a 9, 8, 9. Aspetta. Guarda così, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la cosa dovrebbe essere totalmente diversa, eh? Questo è diverso, la modulazione è molto più pari 30 ore da modulare. Adesso c'è un po' di bassi, allora che sale fino alla cosa rosso sale addirittura. Prima molto ci saliva, ho cambiato la capsula, ho cambiato, i tonnellati non c'erano, adesso invece... adesso ho messo i toni alti, ci sono i toni alti e i toni bassi, l'MB5 è perfetto. Ehi capo, adesso va bene come l'hai messo. Sì, io nell'MB5 quando uso il Galax pure glieli metto a zero, glieli metto a zero ed esce bene. E a voglia, esce perfetto, esce. Io ho l'MB4, c'ho nuovo, nel 2009 di mia sorella, la verità. Poi c'è quello di 4000, quello lo usa anche lì, non è che lo uso sempre io, la verità. Mi piace più quello perché c'ha il frontalino dorato, hai capito? Color metallo. Se fosse stato così anche il cable, sarebbe stata una cosa totalmente diversa, potrebbe essere grigio. Lo sai come sarebbe cambiato di estetica, mettendovi una cosa metallica, bianca, come il 2009. Sarebbe stata una cosa di lusso, la verità. E invece, pazienza, ci dobbiamo contentare di quello che ci dà. Capo, sì. No, anche io ho le mie BP5 che è nuovo proprio, che l'avevo preso da Fusaro non da molto. L'MBP4 l'avevo preso usato, ma è nuovo. come esce bene anche quello, esce molto bene, esce quel microfono. Solo che quando l'ho comprato c'aveva un ponticello, c'aveva, io gliel'ho tolto e adesso è ritornato normale, no? Ah, gli ho fatto originale, ho capito. No, io l'ho comprato, ho mai modificato la vetta del MB4. L'unica cosa che gli avevo cambiato è solamente la capsula. Gli ho tolto la sua originale e la sua originale l'ho conservata con la placchetta metallo. Nel caso magari qualcuno lo dovesse comprare e dire io voglio un nuovo microfono così come l'originale prima. E così gli ho facciato che se lei gli cambietti sui originali, la capsula sua, eccetera, eccetera, allora perché ho pagato quasi 65 euro di quel microfono. Il primo che avevo comprato avevo pagato mi sembra 30, da 30 è passato quasi 40, qualche cosa, poi 60, adesso l'ultimo che l'ho pigliato è 65 euro, mi ha girato no, adesso non lo vendo più, basta, me lo tengo io, il microfono, e l'ho sostenuto io. No, a me me l'aveva dato 55 euro Fusaro. Non ti sto dicendo, io ho comprato tre, ho comprato per me. Il mio avevo preso prima la volta Marino, poi prima di Marino avevo pigliato sempre un altro CB, adesso non mi ricordo il nome. Però sai che l'ho preso 3 o 4 di quei microfoni lì. C'è quella scatola qua addirittura lì dell'MB4, con i collegamenti e tutto. Quindi è nuovo nuovo, non c'è manco un grafo, ho usato sino, già l'hai sentito, con il 4000 oppure nel 2009. Sì, no, già vanno bene, sono microfoni abbastanza buoni, sono quelli, infatti io l'avevo dato il mio MP5 e poi ero rimasto senza. E allora sono andato a Fusaro e l'ho comprato nuovo, per non stare lì a cercarlo usato, che è migliore, per quello che costava, che l'ho pagato, era meglio nuovo. E niente, e così ce l'ho tutti e due adesso, sia il 4 sia il 5. E poi la maggior parte qua nel Galaxy sto usando lo Shure, sto usando, che è un bel microfono. Prima non riuscivo a fare i collegamenti perché c'era un filo che era spezzato all'interno, meno male che era vicino al connettore, se no mi toccava cambiare tutto il cavo intero. Meno male che sono fortunato allora, quindi a voglia, te è andata bene che è andata. Quello succedeva, sai che cosa, in quei capi di quei microfoni dell'M300 per esattezza e sa delta a volte, i capi erano talmente fini che tu per dire quando andavi a tirare appena appena si spaccava il capo, era una cosa allucinante, dovevi sempre tagliare fino a punto che arrivavi a ricciolo. Infatti mi stava venendo il dubbio, poi ho preso il tester e ho aperto il microfono e l'ho fatto filo per filo, l'ho misurato, aspetta, uno non suonava il tester, è arrivato, aia, questo è, riprovato, questo è. Ho preso un filo, l'ho tirato e mi è uscito un pezzettino, mi è uscito, eccolo qua, allora l'ho tagliato, ho rifatto tutti i fili, l'ho collegato, era perfetto. Sì, ma è così, è capitato anche a me qualche volte, in quel microfono, a volte quando tiri, anche nel 1.300 addirittura, quando tiri la spirale, ti rimane il capo in mano, capito? Vai a manuale, tutto un tratto, ho toccato track, ma non esce più di portate, oppure non esce più di audio. Il 1.300 era una cosa allucinante. C'era quel capito a coso che erano, facevano schifo, facevano. Sai cos'è? Un microfono che lui l'ha comprato nuovo, l'ha comprato, ma sto parlando di tanti anni fa, e c'ha parecchi anni questo microfono, come gli anni del Galaxy c'ha. Mi sembra che questo l'ha comprato negli anni 85, l'ha preso, 80, non lo so, e ha preso tutto in quell'anno. E poi l'ha usato, dice che l'ha usato 3-4 mesi, l'ha messo da parte in uno scaffale nel garage del padre e l'ha lasciato stare, e l'ha tolto l'altro giorno, sarà un 2-3 mesi o 2 mesi fa, sì, che me l'ha portato, mi ha detto ce l'ho voi, dammelo se me lo vuoi dare, e me l'ha portato tutto, me l'ha regalato. Cioè, va bene, visto, ti danno una roba così a voglia, a me purtroppo non mi è capitato mai che mi regalano qualcosa a qualcuno, non l'ho sempre comprato, purtroppo così, quando capita mi regala qualcosa a qualcuno chiamala per andare al volo. Alleluia. Con questo siamo amici da ragazzi, poi ci conoscevamo in frequenza, tutto ci conoscevamo, adesso ci siamo ricomprati, infatti mi ha detto, dice, caspita, ancora c'è, ha visto la mia antenna sopra, c'è ancora, c'era il baracchino, ha detto sempre ce l'ho io il baracchino, allora sai che dice che c'ho, che mi sembra che c'ho il Galaxy ancora, microfono, un lineare, c'ho, dice così, così, dice nel, da babbo, dice nel garage. Quando scendo guardo se non ci ha buttato via tutto, il babbo dice te lo do. Ha detto, ma perché non te lo vendi? Dice, ma cosa vendi? Dice, te lo regalo, dice, non me ne frega niente. La sera è salito in macchina e me l'ha portato, mi ha portato tutto, mi ha portato questo, cioè la radio, il Galaxy. E le usure è un lineare, un B231, ma funziona una meraviglia. È meglio così, se è stato fortunato almeno tutto. Oh, io dico di che ci mi conoscevo, non ho mai regalato un tubo a nessuno, di solito lo regalavo io, e quindi c'era la bella differenza. Vabbè, ormai CB ce ne sono tanti, c'erano tanti, la verità, magari il barattino ce l'avevano buttato a casa e magari non l'avevano nessuno, non lo so, o ce lo mettevano a parte. Ne conosco CB, perché ne conosco qua a Sassari, ce ne sono due, uno c'è il 231 con il 4000, la Vantava, insomma, bene, non è vero, gli è morta poveraccio, la moglie, il cognato, figurati tu, dopodiché poi c'è qualche cosa, Angelo, che aveva anche lui l'antenna grande, il quartetto, il lineare, microfono M300, poi il 200 canali, eccetera, eccetera. Anche lui ha la roba, ce l'ha ancora a casa sua, non ne sta usando per niente. Figurati. C'è gente così. Chi ce l'ha a volte qui e non te lo dà, sotto di lì come conservato, eccetera, eccetera. Sì, quello già è vero, o se lo vendono oppure non te lo danno, quello già c'hai ragione, e anche se c'è gente che anche se lo vuoi comprare, lo vuoi pagare, non te lo dà, purtroppo gente è così, mentre questa l'economia mi ha detto, non lo cambio nel volto, intanto l'idea non nascio, non mi interessa più niente, cosa me ne faccio, intanto per buttarlo dentro un cacciatore della moneta, meglio che ce l'abbia un amico. Beh, quello sì. Quello già è vero. No, io casco un sacco di amici, il baracchino ce l'hanno, ma non te lo danno, ce l'hanno lì a casa buttato e non ti danno niente. Tanto per dire, poi magari, non so, magari lo regalano a qualcuno, cosa ne so qui. a volte capita magari vai sopra un tetto, fai l'impianto di antenna, dice che è questa, e quindi devi stare le persone, ci vedi giù, ma ti sei programmato, no, lasciala lì, un giorno diventerò, eccetera, eccetera, capito? E non parleranno. Vabbè, la matto lo sai che quando c'è più di 5-6 anni vai a attaccarla, neanche con la moda ce la fai tagliarla, quindi la fettendini è meglio. Certo. Anche, guarda, io insomma già me ne hanno dato di roba. Guarda, c'era il cugino di mia moglie che è morto, c'aveva il 48 che ce l'ho io, nuovo, poi c'era un portatile della 27, nuovo, poi mi ha dato un lineare della 747, mi ha dato il fratello di questo cugino di mia moglie, no? E mi ha detto un giorno, sono andato a casa sua, sono andato dopo qualche mese così, sono sceso da... e mi ha detto, dice, Francia vieni, dice, guarda che c'è di Claudio, dice, c'è questo e questo, io cosa ne faccio? Dice, tu che le usi queste cose, dice, tieni, portateli via. E me l'ha dati, e mi ha dato il 48, il lineare il 747 e un portatile della 27. Hai fatto bene che hai tenuti, hai fatto veramente bene che hai tenuti, almeno ce li hai di riserva. Ma io se c'è qualcosa che viene a qualcuno me la tengo qua, hai capito? La verità, quindi è morto un amico quattro mesi fa e ancora figurati, devo ancora scegliere i parenti dall'Austria, aprire il garage e c'è il lineare, c'è un lineare grosso, poi c'è un ci sono trasmettitori FM, ci sono una quarantina di antenne per la 27, poi ci sono antenne per la V, per la U, eccetera eccetera, quindi non li metto a trovare tanto ampere, siccome ho sentito quello che deve fare il telefocco, mi ha detto no, tornai, guarda, quella roba lì gira, boh, quello, se, quello ostia, cosa la porta da fuori, eccetera, comunque ho detto, fai parlare con lui, detto, quando ho detto, mi fai parlare con lui, detto, se lui, se la vuoi portare sugli altri, a me non mi sbatte niente, detto, ma se non mi serve niente me la porto via io, ho detto la roba. E c'è anche la bambina, ha detto lì là dentro, non ha giù compreso, ha detto. C'è un lineare, ha detto, c'è uno studio della CTE, ha detto, c'è un 7001, ha detto, della Midland, che è mio, ho detto, e poi ci sono vari apparecchi pure, ho detto. A parte, ha detto, antenne per la macchina. Vabbè, se ti farò sapere qualche cosa, quando vedo dice, il nipote che scende dall'Austria, cosa decide, perché anche lui dice c'è il barattino. Ha detto, ci parlerò io, ho detto se me lo vuoi andare da là, se lo sarà tocca in culo, e se lo va a far culo, ho detto a un certo punto. Se sei stato in culo, vabbè. Va bene, dai Antonio, io mi saluti. Ci sentiamo. Mi stanno chiedendo gli occhi, sennò no, già non devo alzarmi presto domani mattina, però già sono stanco perché stamattina mi sono alzato presto, sono uscito e sono andato a fare una camminata alle 5. Ok, dai, ci sentiamo alle prossimine, buonanotte Antonio. E aspettate, buonanotte, buon tutto, ci siamo alle prossime date. D'accordo, ciao. Ciao, ciao Antonio. Ciao, ciao.